palle tu lo sai, intorno al fuoco tu lo sai, che quando balli mi tormenti l'anima. Tu balli scalza e guardi lui, quando non guarda guardi lui e mi sorridi. Oh mio mistero, mia agonia, io più ti perdo più sei mia, intorno al fuoco siamo tutti nomadi. Ma tu ragazza tu lo sai, tu balli scalza e tu lo sai, che in questo fuoco mi potresti uccidere e brucerò. Senza Dio che non dà retta alle virtù degli uomini, lui ride forte, guarda te, quando non guardi guarda te e mi sorride. Oh, in questa notte senza amore, che grandi prove dall'amore, intorno al fuoco siamo tutti zingari. Tu stai ballando insieme a lui, tu stai correndo insieme a lui, dietro le dune. Stai ballando.